Allora, il sovrappeso, diciamo nel corso di questo conflitto, l'approccio dualista, ovviamente il male, che viene presentato a struttura rafforzata, però viene sempre più minacciato da che cosa? Da due fattori. Uno è l'aumento di conoscenze scientifiche sul complesso di comunicazione biologica, sul funzionamento strutturale di mani, e calcolare per il cervello. Sono un po' il quadro da e quindi si comincia piano piano, non è ancora colmato, ma si comincia a colmare, diciamo, il vuoto che c'era, che era un vuoto principalmente sulla fisiologia, cioè sul funzionamento materiale di certi organi del corpo umano e il loro effetto. Da un lato. Dall'altro si cominciano a scoprire, cominciano a studiare in modo più sistematico una serie di culture diverse da quelle occidentali. O le grandi civiltà che c'erano e che erano, diciamo, comparabili a quella occidentale, molto forte del mondo, anche se erano state questo insieme di fattori porta alla necessità di dover ridefinire in qualche modo l'essere umano, no? Da un lato perché si conoscevano molte più cose sul funzionamento del suo corpo, si stavano più cose sul suo corpo, dall'altro perché venivano a essere conosciuti dei modelli culturali di culture, di modi di vita, di abitudini differenti da quelle e fu allora che diciamo agli inizi del Novecento si sentì il bisogno di fondare, di costruire un nuovo sapere sull'uomo. Addirittura, come spiega Foucault nel suo libro degli anni 60, tra la fine del 700 e l'inizio dell'800 nacque proprio il concetto di uomo come lo consideriamo noi ora, non che non si fosse l'essere umano, è ovvio, ma, però nasce l'uomo nel momento in cui nasce l'antropologia. Il termine antropologia da un certo punto di vista si riferisce prevalentemente a un tentativo di visione unitaria delle culture umane tenendo conto della pluralità di culture stesse, no? Perché si studiano tutte le culture che non sono quella occidentale, da un lato. Allora, questo tipo di antropologia però viene chiamata antropologia culturale perché è quella che studia, cioè ha un tipo di approccio prevalentemente culturalistico. cerca di dare una classificazione delle differenze culture umane ed eventualmente di vedere se c'è un punto di vista unitario, qualche cosa che le che può collegare, diciamo, le costanti universali delle, diciamo, culture. È un lavoro sempre più difficile, ma un discorso invece che renda conto, cioè che sia, che spieghi i meccanismi più fondamentali ancora degli esseri umani, cioè che leghi la biologia con i meccanismi, con i dispositivi di produzione delle culture, questo tipo di discorso non può essere un discorso che questa antropologia culturale può fare, perché questo approccio antropologico è un approccio che interviene, come si dice, dopo, no? In una seconda battuta. Le culture sono già date, io cerco di trovare se c'è qualche cosa, intanto cerco di studiarle, classificarle, descriverle e poi cerco di vedere se è qualcosa che le unifica oppure no. Se vado a cercare i meccanismi di fondo della, invece, i dispositivi più fondamentali che collegano la biologia con la cultura, con le produzioni culturali, faccio sempre un ricorso che posso chiamare antropologico, ma si tratterà di un altro genere di antropologia. Questo secondo genere di antropologia viene chiamato antropologia filosofica. Ed è quella che viene fondata, l'abbiamo scritto, in Germania, diciamo, ai primi del secolo, da un personaggio che si chiamava Max Scheler. Ora, il problema un po' dell'antropologia culturale, ma molto di più dell'antropologia filosofica, è il seguente, principalmente. E cioè, come si può conciliare l'unitarietà della specie umana, il fatto che Homo sapiens ha una biologia uguale, a prescindere dal fatto che siamo più o meno alti, meno bassi, colore della pelle, cioè tutte queste stanatine, cioè cose, diciamo, risultati di un lungo adattamento a certi ambienti, per cui in certi ambienti sopravvivono meglio quelli che avevano la pelle più scura e quindi in Africa c'è un'altra più scura, probabilmente l'uomo Homo sapiens è nato con la pelle scura, poi si è schiarita quando ha emigrato, a volte passano anche un passo di tempo presi, tipo bastano 20, 30 mila, 40 mila anni per, diciamo, per affermare variazioni di questo tipo del colore della pelle, no? Però, diciamo, l'unitarietà biologica della specie umana è fuori discussione. Le teorie razziste, da un punto di vista, diciamo, un razzismo biologico non ha mai avuto nessuna consistenza scientifica, anche, tra l'altro, stranamente soltanto, diciamo, è stato più in Italia che non in Germania, pensate, l'idea di fondare il dibattito biologico in latino, ma era, diciamo, tutto un personaggio abbastanza volatile, quindi, diciamo, i fondamenti del razzismo fascista l'unità biologica della specie umana è fuori, diciamo. Ora, il problema dell'antropologia, secondo filosofica, è fondamentale, è questo. Come questa unitarietà biologica può rendere conto della grande varietà, della grande differenza di culture umane, delle lingue umane? Le lingue umane sono diversissime l'una dalle altre, ci sono tante grandi famiglie, sai, l'italiano, il francese e lo spagnolo sono lingue non latine, e va bene, però hanno una certa somiglianza di struttura con altre lingue, con il tedesco, con il germanico, con le lingue slave, con l'indi parlato, l'india con il italiano, ma vedete, sono tutte lingue. Poi ci sono lingue di un'altra famiglia, crea di un'altra grande famiglia che sono simili tra loro, la famiglia da queste, cioè la famiglia Ivano Saita, la famiglia fino coreana, coreano. Le lingue parlate dai nativi d'America erano una quantità straordinaria, sono morte, sono estinte a centinaia, a centinaia, nel giro di poco più secoli, quelle poche che sono rimaste, sono state studiate alla fine dell'Ottocento, insomma. E le lingue hanno una struttura diversissima, le lingue delle altre diversissime, si vede italiano, no? Ma tra una lingua europea e il cinese c'è una differenza non proprio per la cultura della lingua, no? Si vedono i sillabi, che vengono costruito, quelle diciamo cinesi, lingue invece flessibili, eccetera, quelle europee. C'è una grande diversità, una grande diversità. Come è mai, come dire, possibile questo genere di cose? Ovviamente questa è una sfida anche per il monismo, per il corpo di monismo, perché il corpo di monismo deve rendere conto del pluralismo culturale. Ora, Max Scheler, non l'ha fatto lunga su di lui perché non voglio discutere le sue cose, perché Max Scheler tutto sommato, come dire, semplicemente lui tiene conto dei nuovi saperi sull'uomo, quindi delle nuove conoscenze biologiche sugli esseri umani, eccetera, eccetera, però ad un certo punto Max Scheler, per tagliare la corda, insomma, introduce o reintroduce su una base che lui impone, come dire, biologica, ma che in realtà non ha nulla di biologico, nuovamente un ecologico spiritualismo. Però in realtà la cultura umana utilizza strumenti biologici, ma al fondo c'è una forza che è un po' diversa dalle forze della biologia, che lui dice non era un prodotto della biologia, perché c'è sempre un qualche tentativo di giustificare anche attraverso una linea di continuità evoluzionistica. Si è affermato il darwinismo, si è affermato in pochi decenni, dal 1860 agli anni 20-30 del Novecento, si è affermata l'idea di una evoluzione, quindi di una origine più o meno comune della vita sulla Terra e di una successiva differenziazione tramite meccanismi sicuramente ciechi, per nulla intelligenti, sicuramente casuali, evolutivi dell'evoluzione. Però, insomma, la tentazione del gradualismo diciamo per mai. Quindi il primo tentativo di antropologia filosofica di Scheler è un libro che si sposta in una aperta spiritualistica, quindi c'è qualcosa di diverso da dire. Il principale allievo competitore di Max Scheler, che è Arnold Scheler, è invece fortemente polemico verso questa impostazione. Arnold Scheler è antispiritualista. Arnold Scheler vuole costruire una antropologia filosofica che non faccia riferimento a un principio spirituale. Arnold Galen purtroppo è però un altro, non dico ma un altro di quei tentativi che vi dico prima di cacciare il monismo dalla porta e di farlo diventare la porta. E Arnold Galen lo fa nel modo più intelligente, monismo, il dualismo, e farlo diventare la porta. Il meccanismo che usa Galen, diciamo l'intelligenza e la pericolosità dell'operazione galeniana è la seguente. la posizione tradizionale dualista semplicemente opera il taglio qua. Natura cultura. Dice, la cultura è qualcosa di irriducibile alla natura. È tutto questo famoso della retorica sartigliana, della psiche platonica, dell'anima cristiana, dello spirito di Hegel, diciamo italiano, tutte le filosofie dualiste mettono lì la. No, la Gehlen dice no, non c'è nessuna come dire, differenza tra natura e cultura. La cultura deve essere fatta riaccogliere dentro la natura. Il suo approccio è anti-dualista, no? E quindi il suo alternativo è quello di spiegare l'uomo come fenomeno naturale, e qui però ecco che il dualismo rientra dalla finestra perché Gehlen lo fa comparire. Allora, prima era qua la spaccatura, Gehlen la fa comparire qua dentro la stessa natura. Dice ci sono almeno due processi naturali, entrambi naturali, ma diversi, irriducibili gli uni agli altri. L'evoluzione degli esseri umani non è la stessa evoluzione degli altri animali. Ho trovato una frase che mi pare molto rivelatrice da questo punto di vista, e per questo l'ho messa in questa introduzione a questo libro che ho fatto un po' polemica nei corsi del federalismo, ma della. Un libro di Fischetto sul si chiama Darwin, teorico del consumare. È una rilettura di Darwin che spiega come si può usare Darwin per fondare una concezione del consumare. L'opera fondamentale di Gehlen si chiama L'uomo. L'uomo, la sua natura e il suo posto nel mondo, ed è un libro uscito nel 1940 a Berlino. E in questo libro si legge la seguente frase. Sarebbe, a mio avviso, un risultato meritorio qualora si potesse dare fondamento, seconda pagina, alla generale e popolare opinione che definisce animale tutto ciò che non è uomo, dall'ombrico allo scimpanzé, separandolo dall'uomo. Dove si fonda il diritto di questa distinzione? E si può continuare a sostenerla anche se si ammettono i principi fondamentali della teoria evoluzionistica? La risposta che chiedono a queste due domande è la seguente. La prima, dove si fonda il diritto di questa distinzione? Lui risponde sì alla seconda domanda. Certo, si può continuare, si può sostenere questa differenza tra l'uomo da un lato e tutti gli altri animali dall'altro all'interno di una teoria evoluzionista. E perché? Perché? Semplicemente, dice Gehlen, ci sono due diverse, almeno due diverse linee evolutive, evoluzionistiche. Una che comprende tutto il regno animale e che ha dato origine alle scimmie antropomorfe. Dice, ma sarebbe sbagliato, dice Gehlen, pensare che noi facciamo parte di questa linea. A un certo punto, per ragioni ovviamente misteriose, che lui non può mai spiegare, a un certo punto si è staccata una linea diversa evolutiva che ha dato origine a una sola specie umana, a una sola specie animale, Homo sapiens. 4 milioni di anni fa, 2 milioni e mezzo, 5, chi lo sa, non identifica, ma non è un biologo. Lui? Certo. E lui dice, perché l'essere umano è un essere totalmente diverso. È un animale totalmente diverso dagli altri animali, perché la sua idea è questa, è un animale incompleto, è un animale carente. L'essere umano è caratterizzato da una carenza. Gli mancano tutte quelle specializzazioni che hanno invece altri animali. gli manca un rivestimento di vitro al corpo quasi nudo. Queste cose alcuni nostri fornitori erano un po' più pelosi di noi, ma noi siamo comunque da molto tempo che siamo stati un certo rivestimento di vitro, siamo pelosi. Non abbiamo zanne molto acute, non abbiamo una dentatura specializzata né per il carnivoro né per gli erbivori, abbiamo tutto a mezza strada, incompleto. Soprattutto, dice, abbiamo una serie di caratteristiche unica per gli animali, siamo caratterizzati dalla neotenia, cioè conserviamo a lungo, anche quando siamo adulti, dei caratteri fisici e comportamentali anche a volte delle fasi di infantili. Alcuni più di altri, diciamo tutti gli esseri umani in genere, sono vari, qualcuno che si gioca pure un po', diciamo, da adolescenziale in ritardo, ma però gli esseri umani sono fatti un pochino. Quindi la neotenia, le lunghissime cure parentali, tutti i mammiferi nascono dopo qualche ora, qualche giorno al massimo, sono autonomi, imparano a camminare. Se vi ricordate il film Disney Bambi, la scena in cui dura 3 minuti, 2 minuti, 1 minuto e mezzo, è una cosa realistica, è vero. Prima scivolano un po', non si è trasformato e poi si. Noi ci mettiamo un anno per imparare a stare in piedi, dritti, su due gambe, almeno un anno. Prima di un anno andiamo da soli, cioè non qualche giorno, non 2 ore, no? Dobbiamo essere, quando siamo piccoli, accuditi, sì, anche gli uccellini, la mamma va lì con il cibo, però per quanto? Qualche giorno, una settimana, due, da noi per 2 anni, 3 anni, insomma, la lunghissima cura parentale. Quindi l'idea di fondo è, l'uomo è un animale incompleto. Essendo un animale incompleto, ha dovuto cercare altrove quei meccanismi di adattamento all'ambiente che sono tipici di tutte le altre specie. Le altre specie si adattano al loro ambiente. Galen è favorito in questo fatto dal modo in cui si dice ambiente in tedesco. Cancelliamo Occam, che ha fatto la sua funzione. In tedesco mondo si dice Welt, se pensate al world in inglese capite che ha una radice analoga. Welt è mondo in inglese. Ambiente, Welt in tedesco. Ambiente in tedesco si dice Umwelt. Il prefisso Um è qualcosa che indica contornare, abbracciare. Creare una, quindi Umwelt, il mondo che abbraccia, questo è l'ambiente. Quindi dice Galen, tutti gli animali vivono in un Umwelt, in un ambiente che è specifico loro, fuori da quell'ambiente morirebbero, non sarebbero capaci di procurarsi il cibo. L'essere umano è l'unico che non ha un Umwelt, un ambiente particolare, può vivere in tutte le zone del mondo e in effetti si è visto storicamente che può sopravvivere in loro. Perché? Perché non vive nell'Umwelt, ma si crea egli stesso un Welt. Il principio generale attraverso il quale Galen descrive tutta questa cosa è il principio dell'esonero, il cosiddetto esonero, Entlassung. Anche qui il termine tedesco è più, diciamo, dice più della tradizione italiana, perché noi diciamo esonero, ma nella parola tedesca Entlassung c'è, pensate sempre all'inglese, c'è il less inglese, il procrastinare. L'Entlassung è qualcosa che non solo esonera, ma procrastina nel tempo, lo faccio dopo, lo allontano da me, lo metto per ultimo, last. Anche tedesco, l'Assung è l'ultimo, come in inglese, è questa Entlassung, esonero. Noi traduciamo con esonero perché è l'unico modo in cui possiamo. Entlassung. Allora, a attraverso che cosa vuol dire l'esonero? Vuol dire l'uomo si esonera dal compiere una serie di azioni, diciamo, materiali, per esempio portare la bocca al cibo, come fanno gli altri animali, gli animali quadrupedi, come fanno anche in qualche maniera le scimmie antropomorfe che hanno una stazione, però non hanno una stazione eretta come noi, quindi stanno lì, però se sta sull'albero, mangia la banana, sta per terra, devono avvicinare più la bocca al cibo. Quindi noi ci esoneriamo dalle cose più faticose o più banali attraverso la stazione eretta, attraverso la fabbricazione di utensili che facciano lo stesso lavoro che possono fare le mani in modo molto più rapido, per esempio la schiena, salto, eccetera, eccetera, attraverso l'utilizzo di energia diversa da quella muscolare umana. Per esempio, prendiamo degli animali e li alleviamo per fargli tirare dei pesi o per fargli fare le per fornirci della energia a scopo, no? E attraverso questo esonero, esonerandoci da queste funzioni, siamo liberi per dedicarci ad attività che lui chiama di specie superiore, perché la sua idea è quella che vi ho detto prima, insomma, e cioè che sarebbe risultato meritorio qualora si potesse dare un fondamento alla opinione che animale è una cosa e uomo è un'altra. Allora, da dove viene la mia diffidenza verso questa teoria? Un bel, si costruisce un bel, non un, lo costruisce lui, il mondo è suo, non è un umwelt, cioè non lo abbraccia, perché è lui che se l'è costruito, quindi è questo che non si chiama umwelt, ma umwelt. E quindi mentre l'umwelt può essere soltanto un ambiente specifico, quindi la formica rossa di quella certa specie può vivere, le formiche in realtà sono un brutto esempio, perché le formiche sono animali quasi altrettanto, no, sono specie diverse, però alcune specie sono veramente simili, sono fanno parte di... diciamo, insomma, il leone, l'orso polare può vivere solo al polo, se lo metti all'equatore muore, cioè non fa parte. No, quindi per gli animali l'umwelt è specifico ed è singolare, il welt è tutto il globo, diciamo, come dire, terrestre. Allora, la ragione per la quale, la prima ragione per la quale sono diffidente verso questa teoria è che questa teoria fonda sul fatto una specie di dualismo nuovo, di nuovo tipo, apparentemente naturalistico, però è un nuovo tipo di, diciamo, dualismo. Una studiosa italiana, brava, che segue le orme di Galen, lo ha detto in modo migliore di quello che posso dire io, e quindi ve la leggerò, è la Maria Teresa Pansera, nota 12 del testo che vi ho dato. L'uomo per Galen non solo occupa un posto privilegiato nel mondo, ma è egli stesso il prodotto di un progetto particolare della natura. L'uomo è il prodotto di un progetto particolare della natura. Non può essere considerato semplicemente come l'ultimo anello di un unico processo evolutivo che accomuna tutti gli esseri viventi, ma deve essere interpretato come il risultato di un processo separato, di un progetto separato, di una qualche linea evolutiva distinta da quella degli animali. Voi tutti sapete che la cosa che non va giù prevalentemente ai dualisti di ogni tipo, e in modo particolare ai cristiani conseguenti, della teoria darwiniana, è il fatto che l'evoluzione per Darwin non è il risultato di una serie, è il risultato di una serie di fenomeni casuali, che casualmente, attraverso una selezione non progettata, no, di mutazioni, di variazioni nelle popolazioni animali, ha favorito, perché ha alcuni animali portatori di varianti presenti ad altre hanno mangiato di più e hanno scopato di più di altri individui, e facendo ciò hanno assicurato non solo la loro presenza fisica ma anche quella dei loro discendenti, perché hanno trasmesso il proprio materiale genetico. Quindi quelli che casualmente si sono rivelati all'interno di una stessa popolazione più adatti di altri, perché hanno acquistato più cibo e hanno avuto maggiore accesso all'attività sessuale con i pari, con partner del sesso opposto, quindi hanno ingravidato più femmine, più maschi, si sono fatto ingravidare di più da altri maschi le femmine. Questo solo fatto ha portato al fatto che quella casa di popolazione avesse queste caratteristiche. Quindi questa è la selezione naturale. Voi sapete che negli Stati Uniti c'è una campagna furibonda di alcuni ambienti della destra, insomma, con conservatrice cristiana, la quale ha addirittura creato una pseudo teoria chiamata creazionismo, la cui variante più apparentemente meno conseguente si chiama intelligent design, cioè progetto intelligente, e queste persone, queste tendenze, diciamo, della tradizionaliste delle chiese più tradizionaliste americane chiedono una cosa pazza, insomma, cioè che nelle scuole venga insegnato, accanto alla teoria dell'evoluzione di Darwin, questa cosiddetta teoria creazionista, solo che è una differenza, mentre la teoria di Darwin è una teoria scientifica discussa, approvata, selezionata, validata da una comunità scientifica, il creazionismo non è nulla di tutto questo, è una pura fantasticheria di un gruppo di persone che non ha alcuna rilevanza scientifica, e quindi sarebbe fuffaldino spiegarla nelle scuole mettendola sullo stesso piano, cioè loro non è che vogliono che come in alcuni ambienti islamici o tra gli ebrei ultra ortodossi, ci sono alcuni che sono convinti che la Terra abbia davvero 6.500 anni, e quanti cazzo ne ha, facendo i conti con le genealogie diciamo della Bibbia, no? Andando a diciamo di trovo, hanno fatto caso, grazie a tutti, questo parla, hanno fatto miliardi di anni, insegnare nelle scuole il creazionismo vorrebbe dire metterlo sullo stesso piano di una teoria scientifica come quella darwiniana. Quindi questo già mi porta alla... E soprattutto sono molto preoccupato che un autore come Galen usi un termine come progetto particolare o legge peculiare, no? C'è un progetto, ma come c'è un progetto? Allora sei favorevole all'intelligent design, e chi è che ha fatto? Se c'è un intelligent design, se c'è un design, deve essere un designer, non c'è progetto. E di fatto, senza che lui, diciamo, lo dica, e allora sono andato a riflettere un po' di più. Ho discusso con il mio amico Marchesini, che ha scritto un libro di 500 e rotte pagine sul corpo umano, e in questo più o meno d'accordo con lui, su altre cose meno, ma in questo d'accordo con lui, abbiamo deciso di porci due fondamentali domande. La prima: ma qual è il modello rispetto al quale l'uomo sarebbe carente? Dove sta il modello che mi dice questo è completo, l'uomo è incompleto? Se l'uomo è incompleto vuol dire che gli manca qualche cosa che fa parte di un modello completo. Riflettendo ancora un po' dico, vabbè, ma se dico che l'uomo è incompleto perché gli manca la vista acuta dell'aquila, o gli manca la potenza muscolare dell'orso, o gli mancano le unghie potenti di Wolverine, non di Wolverine, cioè animato di Wolverine animale, il piattone, quello che noi chiamiamo piattone, questa cosa è proprio dell'aquila. L'aquila è incompleta perché gli manca la nostra capacità cerebrale. L'orso è incompleto perché gli manca la velocità del... tutti gli animali in quanto tali sono incompleti, per il fatto che non esiste alcun modello animale biologico di completezza. C'è un animale ideale, che ha tutte le virtù, tutte le cose buone. A ogni animale gliene manca un pezzetto, e va bene. l'idea che l'uomo sia incompleto deriva, e qui c'è il problema, qui c'è diciamo il sottinteso, il non detto di Galen, è che c'è una sorta di modello implicito che non viene reso esplicito di completezza, è ancora una volta il meccanismo proiettivo dell'essere umano, linguistico dell'essere umano che è in azione. Linguistico proiettivo, ah, ci deve essere questo uomo o questo animale che ha tutte le cose che io non ho. Attenzione, non diamo a Galen più colpe di quelle che abbia, non se l'è inventato Galen, il paradigma dell'incompletezza. L'incompletezza è qualcosa che risuona nella cultura europea da almeno 5 secoli, probabilmente il primo che ne parla è Michel de Montaigne, uno tra i primi scrittori e tra i primi filosofi, per cui il fondatore diciamo di una filosofia pre-cartesiana, vive diciamo, un secolo prima di Cartesio, uno dei primi libri moderni di Montaigne. Montaigne è uno dei primi che osserva che l'uomo non ha la corsa della lince, la velocità della lince, la forza del leone, la vista dell'aquila, eccetera, eccetera. E dice, l'uomo non ha tutte queste cose, ma ne ha altre al posto suo. Già, ma il personaggio che per primo formula la teoria dell'incompletezza è Johann Gottfried Herder. Montaigne, Michel de Montaigne. Johann Gottfried Herder, ma tanto un po' di gente lo potrebbe mettere, che è un filosofo tedesco fra 700 e 800, uno dei fondatori del romanticismo filosofico tedesco, e Herder invece proprio è, diciamo, in un libro che non mi ricordo qual è, perché adesso non sto dietro, il libro di Galen, ma Galen ovviamente lo cita, è il primo che dice l'uomo è un animale incompleto, all'uomo mancano delle cose, l'uomo è un uomo capace di completare se stesso attraverso la sua azione culturale. Ecco, l'idea che l'azione culturale serva per l'idea che la cultura, il linguaggio, siano qualche cosa che servano per completare, ma completare cosa? Completare una sorta di modello ideale, quindi in negativo, invece di riconoscere tutte le cose che vengono addebitate agli esseri umani come incompletezze da parte di Herder e di Galen, noi possiamo leggerle in positivo, cioè come descrizioni di caratteristiche degli esseri umani. Il castoro ha come caratteristica biologica quella di è dotato dell'istinto automatico di costruire dighe, è una delle sue caratteristiche, si può definire, chi è, come definiamo il castoro? È l'animale che costruisce dighe. Come definiamo l'essere umano? Come l'animale che alleva la sua prole per 3 anni, è una caratteristica, certo, ma perché la devo tacciare di incompletezza? Quindi, prima domanda fondamentale, dove sta il modello? Dove sta la, non vuol dire, allora il dubbio possibile è, si può accettare un paradigma di incompletezza dell'uomo solo se si sovrappone alla, alla materialità dei dati biologici un modello già costruito, già pensato, quindi è un circolo chiuso. L'uomo pensa a se stesso come essere incompleto perché si proietta e quindi tornando indietro va a vedere come fa, dice ah sono incompleto, mi manca questa cosa, ti manca quello che hai sognato. È come Chuang Tzu, che ha sognato di essere una farfalla, si sveglia e non sa se è Chuang Tzu che ha sognato di essere una coda farfalla o se è una farfalla che sta sognando di essere Chuang Tzu. È circolare, no? Io proietto, guardo qua, dico ah, qua c'è qualcosa di completo. Allora mi guardo indietro e dico, ah, sono incompleto, grazie al cazzo. Mi sono autocostruito il modello e dopodiché sono. Ma c'è una seconda obiezione, ancora più forte, secondo me, che dice anche bene Marchesini nel suo libro sul post-human, ma che abbiamo discusso e che mi pare di poter asseverare, ed è questa. Se l'uomo fosse davvero un animale incompleto, soffrirebbe di una serie di carenze, giusto? Queste carenze sarebbero uguali per tutta la specie umana. Infatti, la presenza dice, all'uomo mancano le unghie, la velocità, ok. Faccio un elenco delle carenze umane. E queste carenze valgono per tutta la specie umana. Sono delle descrizioni, molto forti, mi dicono, funziona così, così e così. Sono degli elementi, una lista di cose che mi mancano. Cosa dice Gehlen? Il principio dell'esonero, e quindi la cultura, il linguaggio, la tecnica, sono lo strumento per colmare queste lacune, giusto? Ma se queste lacune ci fossero, sarebbero uniche. Se la cultura fosse il modo per colmare queste lacune, sarebbe unica. Non ci sarebbero così tante culture al mondo. Come è possibile? Se un insieme di carenze ben stabilito, ben diciamo, definito, una bella lista di mancanze, mi manca sale, latte, focaccia, pane, tovaglioli. Vado al supermarket, non compro bistecche, trippa, formaggio, compro quello che mi manca. Torno a casa, quello che mi manca l'ho sanato. Non posso sanare una lista di carenze comprando l'infinità delle merci del supermercato. Devo comprare le cose che mi servono per sanare quelle cose. Se la molla della cultura fosse davvero, come sostiene Gehlen, l'incompletezza rispetto a qualche cosa, la cultura sarebbe unitaria, unica per tutta la specie umana. Non ci sarebbero così tante culture diverse come ci sono. Se ci sono tante culture diverse è perché la fonte, la molla della cultura non è una carenza, non è un elenco di carenze stilabile, definibile, A, B, C, D, E, F, G. È una potenzialità, è una predisposizione degli esseri umani che è vero per una serie di motivi biologici, in quanto hanno la stazione eretta, hanno più spazio nel cranio, semplicemente perché gli esseri che stanno dritti devono avere più un cranio lievemente più pesante dietro, perché se avessimo un cranio piatto come quello dei gorilla cascheremo per terra in continuazione e nessuno sarebbe sopravvissuto, non parliamo di scopare, prima ancora di arrivare all'età della pubertà tutti gli esseri sarebbero cascati morti. Quindi quelli che sono sopravvissuti è perché avevano casualmente il cervello scivola all'indietro, la produzione di materia grigia è, c'è dello spazio, si produce casualmente, sempre con le cose casuali, e ci siamo trovati ad avere un volume cranico e quindi una massa cerebrale pari a circa una volta e mezzo quella dei nostri cugini più prossimi, che sono le scimmie. Questi lobi frontali, questa neocortezza, questi neolobi frontali parietali che abbiamo nel cervello, hanno creato una attività cerebrale maggiore di quella che hanno le scimmie, per cui alcuni individui si sono inventati un sistema di accoppiamenti significanti e significato che si chiama linguaggio, alcuni altri hanno insieme, probabilmente gli stessi, si sono messi lì a scheggiare pietre per 3 giorni per farci delle pietre con i bordi aguzzi. Entrambi questi comportamenti si sono rivelati di fatto, senza nessun intelligent design, un vantaggio per la sopravvivenza. All'interno della funzione sono soprattutto meglio personaggi che avevano quelle caratteristiche. Quelle caratteristiche implicano la non sussistenza, il non adattamento a dati ambientali una volta per tutti, ma indica un grande adattamento a una varietà di ambienti. Questo però spiega che nella gola di Olduvai si è sviluppato un linguaggio e una cultura. 20 km più in là, nella stessa Africa, persone con la stessa biologia, avendo un insieme di predisposizioni vario, aperto, vuoto, facoltà, pura potenzialità, ha sviluppato un altro linguaggio e un altro insieme di cose culturali. Certamente nella prima fase della tecnica le tecniche sono molto simili, cazzo, se devo scheggiare un coso non c'ho 50.000 modi per farlo, quindi è ovvio che il ciotolo scheggiato sarà più o meno uguale, ma nelle cose su cui ho più libertà, su cui per esempio la creazione di un linguaggio, quello cambierà. Il ciotolo lo scheggio uguale a Olduvai, sulle rive dell'altra parte del Kenya, in tutte le zone in cui scheggio ciotoli più o meno saranno uguali, ma le altre robe, le cose più complicate che faccio a partire dal ciotolo, diciamo, scheggiato, e per esempio il linguaggio, quelle saranno diverse, e quindi uno si farà un tatuaggio qua e l'altro se lo farà qua, uno si metterà una roba rossa sul cranio e l'altro una roba blu sul polpaccio, e saranno, e queste sono le culture, per metterci robe strane, e queste sono le culture, sono mica le culture, sono poi io, dopo c'è anche la Divina Commedia, però diciamo di base è appiccicarsi patati addosso, fare dei gesti, urlare alla luna, fare capriole, tagliare dalle parti e sposare solo quel, sì, solo no, solo donne, solo quella del villaggio che sia dall'altra parte e che abbia come parenti, cioè regole complicatissime, per così, questa è la cultura di base, no? Appiccicarsi robe sulla testa e costruire sistemi complicati di parentela, questa è la cultura. Su questo poi andiamo avanti a tutto il resto, su quel dopo Michelangelo, Dante, io lo so perché ho già capito che lei è molto refrattaria, sì, anche su questo, arrivano molto dopo, ma va bene, sono contento, anzi, sono più contento di discutere che non di, mica voglio convincere la gente così semplicemente, è troppo facile convincere la gente con delle strategie retoriche. Va bene, allora queste sono le due grandi risposte che Caronia e Marcellini danno al signor Ghelan, che è morto nel frattempo, però non si può più rispondere, sul paradigma della incompletezza. Primo, l'incompletezza presuppone un modello ideale che è una costruzione culturale, quindi il discorso della conseguenza si morde la coda. Secondo, il discorso sulla incompletezza non spiega, anzi è incompatibile con la grande pluralità di modelli culturali che si riscontrano nello studio delle culture. Conclusione, la teoria di Ghelan riintroduce un dualismo particolarmente pericoloso all'interno della stessa natura e infatti è costretto a rifiutare il modello darwiniano della evoluzione a favore di un altro modello dualista, che dice che ci sono almeno due modelli di evoluzione, diciamo, diversa. Finitevi, leggetevi bene lo stesso questa cosa, questo qui, nelle ultime due pagine si fa riferimento a un libro che non conoscete, perché questa è la prefazione ad un altro libro, ma in cui si spiega più o meno quello che dice il libro di Fuschetto, ma insomma voi comunque leggetevi le prime quattro che sono, leggetevi anche le ultime due, ma insomma dico quello che vi serve principalmente sono le prime quattro pagine. Allora, con questo io considero chiusa il discorso sull'evoluzionismo, sul monismo, sulla dialettica monismo-dualismo, e non tutto quello sulla natura cultura. Dalla prossima volta cominciamo a invece entrare in ballo specificamente sulle questioni del dibattito tra relativismo e universalismo, parliamo del concetto di verità, parliamo del concetto di e come dire, vediamo quali critiche si possono fare, quali critiche reciprocamente si fanno universalisti e relativisti, e da che parte si può stare uno di voi tollerare. Quindi dalla prossima volta si comincia a usare il libro di Ibáñez. Credo che ne leggerò anche dei pezzettini, perché è fatto bene, e poi c'è un libro di inizio che c'è tutta una, in 20 pagine fa una storia della filosofia dal punto di vista dell'universalismo, che a me pare bellissima, specialmente per chi non ha fatto filosofia al liceo, è molto utile, perché in breve, sono poche pagine, 30-40, dal punto di vista ovviamente di questo dibattito, però spiega bene il ruolo di Platone, eccetera, tutto carino. Ovviamente ho gli stessi momenti di Giudani, quindi è questo che ho fatto. Va bene, basta, chiediamo un po' di cose.